Apriamo questo 2021 con la prima intervista. La nostra prima intervista è a un cantautore fiorentino che è uscito in realtà nel 2020, il 13 novembre 2020, col suo secondo album. Ciao. Stiamo parlando di Andrea Mastropietro, però in arte è L'Albero. Io inizierei chiedendoti intanto come va. Ma è una domanda importante in questo da quando esiste questa pandemia e da quando esiste il Covid, però insomma tutto bene, dai. Nonostante questa situazione, diciamo tutto bene. Beh, si procede, dai, poi vediamo se questo 2021 sarà un po' più divertente. Io inizierei chiedendoti una prima cosa. Intanto ho una curiosità sul tuo nome, quindi prima di parlare dell'album, io ti vorrei chiedere perché hai scelto L'Albero come pseudonimo, diciamo, insomma, come nome d'arte. Allora, ho scelto il nome L'Albero perché credo che ci sia, mi affascinava, ecco, questa similitudine che c'è tra, che almeno io vedo, che trovo tra gli alberi e gli esseri umani, nel senso che le trovo che siano due figure in realtà non molto diverse. Gli alberi hanno, diciamo, una parte più visibile, più esterna, che è rappresentata dalla chioma, dai rami, dalle foglie, e posseggono anche una parte più nascosta, che è rappresentata invece dalle radici, una parte che non si vede, però una parte importante degli alberi. E così penso che siano un po' anche le persone, ecco. Credo che ogni persona abbia una sua parte più sociale, quella che in qualche modo mostra esteriormente alle altre persone, e invece una parte più misteriosa che decide di far vedere solamente a chi vuole, insomma. Questa similitudine, questa somiglianza mi ha sempre affascinato, e credo che questo sia il motivo principale della scelta del nome. Ah, perfetto. Però raccontando anche un pochino il tuo album, Solo al Sole, adesso diciamo il titolo appunto, sì. Se non sbaglio dici anche però che non siamo fatti per mettere radici. È vero, è una cosa che ho detto perché mi riferivo soprattutto al valore che può avere la musica, e io col mio disco Solo al Sole, con le mie canzoni, cerco in qualche modo di portare l'ascoltatore da qualche parte, ecco, quindi di non farlo rimanere fermo. Credo che nella musica italiana, forse non solo quella italiana degli ultimi tempi, ci sia una tendenza un po' marcata, un po' forzata nell'essere un po' troppo, diciamo, nell'andare troppo incontro a volte a quello che l'ascoltatore si aspetta, e invece a me piace la musica che riesce a portarti da un'altra parte attraverso i suoni, attraverso le parole, e quindi per questo mi riferivo al mettere le radici. Credo che la musica italiana l'abbia fatto in passato, questa cosa qui di cui sto parlando, per cui cerco, ecco, di fare questo, una musica che in qualche modo riesca a portare l'ascoltatore in un altro luogo, quindi cerco una componente comunque di evasione dalla realtà, che non è, naturalmente, non vuol dire superficialità o leggerezza, è un'altra cosa. E infatti dici anche che la musica è fatta, le canzoni servono per viaggiare, giusto? E aggiungi anche che c'è stato un momento in cui la musica italiana era un razzo, quindi c'è un po' questo effetto malinconia, forse, in cui tu guardi un po' alla storia, alla musica italiana storica in un qualche modo, che c'è stata qualche anno fa. Qual è la differenza, appunto, che vedi tra questa musica e quella che invece viene prodotta oggi? Beh, io credo che, diciamo, il mondo a cui mi riferisco io è quello di una musica cantatoriale degli anni, quindi soprattutto degli anni 60 e 70, Solo al Sole forse è incentrato più sulla musica italiana degli anni 70, è il periodo della musica italiana in cui si sperimentava, si aveva comunque il coraggio di trovare delle soluzioni, anche non fossero le più banali e le più scontate. Ecco, vorrei che, soprattutto penso forse il punto che distingue di più quella musica lì da quella di ora, e che trovo in quella musica una grossa componente di verità e di necessità, quindi musica scritta e prodotta perché necessaria per gli artisti che la scrivevano, e credo che oggi si sia perso un po' questo valore. Escono tantissimi dischi, però è difficile, ecco, almeno per me, trovare dischi che sento veramente importanti. Probabilmente questa componente di necessità e di verità si è un po' persa. Ok, era quello quindi che dicevi, il fatto che gli artisti vanno più incontro a quello che la gente vuole sentire, no? C'è più un'attenzione. Beh, sì, c'è un po' questa tendenza, sì, ecco. Poi naturalmente io vorrei che ci fosse spazio per tutto, naturalmente. Non, la cosa che lamento a volte è che, ecco, vorrei che ci fosse spazio maggiormente per tutti, ecco, anche per chi fa il tipo di discorso musicale magari che faccio io. Ok, allora direi che per il momento ci ascoltiamo Solo al Sole, la canzone appunto che dà il titolo al tuo album, e poi torniamo a parlare di questa nuova uscita. Steso al sole come un serpente, cambio la mia pelle, pancia a terra nella mia testa, faccio sempre guerra. E penso a te e non a me. Io che mi trovo a rinascere. Vita nuova dalla cenere. Soprattutto se c'è, perché accadia, fammi stare così, e non sto mica male steso solo al sole. Se pensamos Abbiamo ascoltato la canzone che è la title track praticamente di Solo al Sole. Quest'album è uscito il 13 novembre, quindi qualche settimana fa. Che riscontro ha avuto in questo periodo un po' anche particolare, per cui far uscire un disco, rilasciare un disco è molto diverso rispetto agli anni precedenti, al periodo precedente? Ma io devo dire, come dicevi, il disco è uscito il 13 novembre, quindi non da troppo tempo. Per ora devo dire sono molto contento di come sta andando, appunto considerando, come dicevi te, il periodo in cui è uscito. È sicuramente un disco che mi ricorderò per sempre, probabilmente, come tutti quelli che hanno fatto uscire un disco in questo momento, perché è talmente particolare e unico che sicuramente tutti i dischi usciti durante la pandemia, insomma, hanno secondo me un valore importante, ecco. Secondo me poi un disco ha una data di scadenza, a un certo punto deve uscire, perché comunque fotografa un momento della vita di chi ha scritto il disco, e quindi credo sia giusto a un certo punto farlo uscire comunque. E naturalmente la cosa più triste di tutti la sappiamo qual è, che non si suona live, non ci sono live, per cui purtroppo manca questa componente fondamentale nella promozione dei dischi che escono ora. Poi per il resto devo dire che sono molto, molto soddisfatto. Perfetto, ma a riguardo appunto la questione dei live, no? Ti avrei proprio chiesto questo, sì, nella domanda successiva, cioè promuovere un disco senza questa parte dei live è sicuramente molto difficoltoso anche per voi, mi immagino che un artista abbia proprio voglia di suonare le canzoni dal vivo, no? Sì. Tu hai pensato a fare degli eventi live, un concerto live in streaming per questo momento, o preferisci aspettare magari la possibilità di salire su un palco realmente, davanti alle persone realmente? Direi, ecco, la seconda che hai detto, non ci sono tanti, nel senso che non ho una particolare passione per i concerti in streaming. Credo che siano così un affrettare i tempi, e sia un'operazione che non si avvicina proprio per niente alla dimensione di un live. La cosa bella dei live è essere a contatto diretto con le persone, avere le persone che sono davanti a te mentre ti canti e suoni, ed è uno scambio di sensazioni e di emozioni che non puoi trovare assolutamente in un concerto streaming, per cui per ora non ho programmato di farli, ecco. Ok, allora aspettiamo un pochino e speriamo che si possano fare dal vivo molto presto, insomma. Ma speriamo, infatti. Beh, parliamo un pochino di quest'album, appunto, Solo al Sole, che ricordiamo è il tuo secondo album, sono passati 4 anni da quello di debutto. E le influenze musicali, io volevo chiederti un pochino i tuoi ascolti, diciamo, quali sono gli ascolti che sono entrati dentro quest'album, sia a livello nazionale che a livello internazionale? Ma io ho cercato un po' di metterci tante cose diverse che mi piacciono e che ho ascoltato e approfondito negli ultimi 2 anni, che poi sono gli anni in cui appunto ho lavorato su questo disco, su questo progetto. E come ti dicevo, accennavo anche un po' prima, la musica italiana che mi interessa di più è quella che anche in passato è riuscita a trovare un equilibrio e a fondere il suono internazionale, estero, con invece un'identità anche molto forte italiana, e quindi mi riferisco a Battiato, a Battisti, a Luigi Tenco, a Pino Daniele, sono molti dei nomi, diciamo, che amo di più e che credo siano finiti anche un po' innegabilmente nel mio disco, proprio perché mi affascina questo loro equilibrio che sono riusciti a trovare tra il suonare italiani, ma allo stesso tempo anche non essere italiani, avere un suono comunque universale, un suono abbastanza internazionale. Questo è quello che, diciamo, mi interessa, e quindi ti dico che ci ha finito, oltre a questi nomi italiani che ti ho detto, ci ha finito dentro anche un po' di neo psichedelia, diciamo, degli anni 2000, perché mi piace, perché prima cantavo in inglese, io vengo dall'inglese, quindi è una musica che ascolto molto. La mia passione, per esempio, per il Britpop, tutta la musica british degli anni 90, e credo che anche quella sia finita un po' dentro il disco. Poi ci sono due brani strumentali, che sono un mio modestissimo e piccolo omaggio a tutta quella parte della musica italiana degli anni 50-60, fatta di grandi autori come Piero Umiliani, Piero Piccioni, Teo Usuelli, ma tantissimi altri nomi. Insomma, ci ho messo anche dei pezzi strumentali, quindi ho cercato un po' di fare un grande mix, ecco, di tutte le cose che mi piacciono, almeno ora, in questi anni. Allora adesso ci ascoltiamo Volo 573 e poi torno a farti le ultime due domande su quest'album. Volo 573, che parti per l'oceano, prendi me, io non resisto più, voglio tuffarmi dentro il blu. Ti aspetto qui al bar, la porta degli arrivi si aprirà, io non resisto più, e lentamente vado giù. dicevamo prima che l'album è uscito a distanza di 4 anni, solo è uscito dopo 4 anni rispetto a Oltre quello che c'è, che era il tuo album di debutto. E è un tempo molto lungo, molto spesso gli album escono molto più vicini, più ravvicinati. Cos'è successo in questi 4 anni? Sì, effettivamente sono, devo dire, ci ho messo un bel po', sono un po' lento a maturare le idee nuove. Io mi sono preso tutto questo tempo perché avevo proprio bisogno di mettere più a fuoco quello che volevo fare. Il primo disco è stato molto più diretto, è una cosa molto più diretta. Io era ancora, suonavo, andavo ancora in giro un po' con i Vickers, era il gruppo in cui suonavo prima. E è stato un po' un passaggio dall'inglese all'italiano, una cosa molto, molto naturale, molto spontanea, ma anche molto veloce rispetto a Solo al Sole. Per questo disco invece ho ponderato molto di più tutto, è un disco più ragionato, ho lavorato tanto sulle canzoni, chitarra e voce o piano e voce, cioè in modo che le canzoni fossero già abbastanza definite nella loro struttura, nella loro struttura primaria, ecco, un atteggiamento un po' battistimo gol. Volevo che le canzoni fossero, non ti dico perfette, però che suonassero già bene, senza arrangiamento, senza produzione. E quindi questo tempo, poi alla fine, questa operazione mi ha richiesto chiaramente un po' di tempo, poi il tempo vola e quindi alla fine sono passati, sì, 4 anni, anche se prima dell'uscita del disco erano già usciti un paio di singoli, per cui diciamo forse un po' meno di 4 anni. Allora io ti chiedo adesso, prima di salutarci, se ti va di scegliere una canzone, quella che secondo te rappresenta di più la storia di quest'album, da far ascoltare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Allora, visto che mi fai questa domanda, ti dico Cenere, che è anche il primo singolo che è stato estratto dal disco qualche mese prima uscisse, e perché penso sia un po' un buon mix, una buona sintesi di delle cose che si possono trovare dentro il mio disco. Perfetto, io ti ringrazio molto per la disponibilità, per questa grazie intervista, e speriamo di vederci molto molto presto per un live. Speriamo, speriamo. Allora ci salutiamo con Cenere. Ciao, grazie. Esplode il mondo davanti a noi, morti tutti gli eroi, e come i quadri dentro ai musei, ho gli occhi addosso ed ora non vorrei. Rimbalzo nelle strade intorno a me, quello che vedo è solo cenere, gli amici e le loro famiglie.